Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi al Senato propone un nuovo patto coi moderati, ma Bossi chiude all'UDC e i finiani non si muovono, discorso debole. Intanto prosegue la caccia agli indecisi, due colombe di Futuro e Libertà disertano il vertice confini, Di Pietro in procura presenta un nuovo esposto. Grande operazione contro la mafia, a Palermo arrestate quasi 40 persone grazie alle denunce degli imprenditori. Calcio, il campionato dice ancora Milan e Juve, la Roma è nervosa anche se vince, Ranieri litiga con Sky. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Sono dunque iniziati i due giorni più lunghi per il governo Berlusconi. Discorso del Premier al Senato questa mattina, poi sempre nella mattinata gli interventi a sostegno dell'esecutivo. Nel pomeriggio sarà la volta delle mozioni di sfiducia. Domani il voto decisivo. Sin qua dunque il calendario, mentre prosegue, e abbiamo sentito anche dai titoli con Antonio Di Pietro che si è recato nuovamente in procura per un nuovo esposto a proposito della caccia agli indecisi e la possibile compravendita dunque di voti. Ne parleremo più avanti. Cominciamo dal discorso che ha tenuto questa mattina il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Ce ne parla Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Rivendica il diritto di governare, propone ai moderati un patto di legislatura, invita i finiani a non tradire. Per Berlusconi l'azione di questo governo non va fermata qui, tantomeno avrebbe senso la nascita di un esecutivo tecnico, vi sarebbe il tradimento del mandato degli elettori, ha spiegato il Cavaliere, meglio andare ad elezioni allora, ma ascoltiamo il Premier. Abbiamo bisogno di continuità operativa, di un governo in perfetta efficienza, di una cooperazione istituzionale e politica ampia. Abbiamo bisogno di capacità di decisione. Abbiamo bisogno di tutto tranne che di una crisi al buio, senza che vi siano alternative valide al quadro politico stabilito dagli italiani con il loro voto. No dunque ad una crisi al buio, sarebbe una follia secondo il Presidente del Consiglio, così come un governo tecnico, aggiunge il Cavaliere, vorrebbe dire non rispettare l'esito delle urne, chiaro il riferimento ai finiani. Sentiamo questo passaggio dell'intervento del Premier. Tutto si può dire, tutto si può fare, ma non progettare un'alleanza con la sinistra in questa legislatura, camuffata da un governo di transizione, e neppure unire i propri voti a quelli dell'opposizione, sommando grottescamente i voti sottratti al Popolo della Libertà a quelli del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori. Tutto si può fare, ma non si può tradire il mandato ricevuto dagli elettori. Chi vota contro si allea con la sinistra, il ragionamento di Berlusconi è comunque il ribaltone, secondo il Cavaliere è una speranza vana, il capitolo legge elettorale poi il Premier apre su questo tema ma ricorda la sua modifica a un solo limite invalicabile, ovvero la difesa del sistema bipolare. Il resto della maggioranza quindi con la posizione della Lega, Berlusconi avrà la fiducia, dice Bossi, ma con un voto in più non si governa meglio il voto che l'allargamento all'UDC, ma sentiamo Bossi. Penserei quindi tutto questo porterà, ma secondo me passa la fiducia, solida, molto numerosa. Io sono convinto che sono meglio le elezioni, in quel caso lì forse sarebbe meglio le elezioni. Adesso si passa qui e poi Berlusconi deciderà. E qui al Senato è in corso il dibattito, l'esito del voto di fiducia si avrà domani alle 11.30 da Palazzo Madama, è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo, e adesso si tratterà di vedere se le dichiarazioni del Premier riusciranno a fare breccia sugli indecisi o sull'UDC o sui finiani che sono stati chiamati in causa, come sentivamo direttamente da Berlusconi. C'è un vertice proprio in questi minuti tra Fini e gli esponenti di Futuro e Libertà. Intanto però stiamo alle dichiarazioni ufficiali dell'opposizione, che oggi presenterà anche le mozioni di sfiducia. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, Alessio e Finiani sono decisi a votare no alla fiducia, come confermato ieri anche da Gianfranco Fini nella trasmissione Mezz'ora di Lucia Annunziata. Il Presidente della Camera vedrà a pranzo le colombe di Future Libertà, come detto te, Silvano Moffa e Maria Grazia Siliquini. Ma sentiamo invece la posizione ufficiale dell'FLI, il capogruppo a Palazzo Madama, Pasquale Viespoli. L'intervento di Berlusconi non cambia direzione di marcia e quindi ancora non affronta e non risolve i nodi di carattere politico-istituzionale che bisogna sciogliere per recuperare l'area moderata in una ricomposizione ampia e dare slancio e profilo all'azione di governo. Ma noi abbiamo posto alcune condizioni per delineare un patto di legislatura. Abbiamo detto agenda politica di politica economico-sociale, riforme costituzionali che accompagnino il completamento del federalismo e affrontino il tema del riordino delle competenze tra Stato e Regioni. Per fare questo abbiamo detto c'è bisogno di un nuovo governo e di una maggioranza capace di sostenere questo impianto riformatore e dentro questa maggioranza inserire anche l'UDC. Per l'UDC invece la soluzione è sempre la stessa, Berlusconi si deve dimettere da Premier. Sentiamo il leader Pier Ferdinando Casini. Per essere credibile mancava solo un chiarimento, la ragione per cui non si va a dimettere, perché poiché si è avventurato in questa caccia all'ultimo voto, questa sorta di mega compravendita parlamentare, non si capisce perché, se è credibile il suo proposito di appellarsi alla responsabilità, il primo responsabile non è lui. Cioè, per rendere tutta l'impalcatura del discorso, che è stata buona, credibile, Berlusconi doveva dire l'ultima frase: per queste ragioni, ritenendo inutile una contabilità parlamentare che nella migliore delle ipotesi mi darà un voto in più alla Camera, mi vado a dimettere. Non scontato da parte di IDV e PD, Anna Finocchiaro spiega la posizione del Partito Democratico. È stato un intervento di una stupefacente debolezza. Probabilmente ha voluto tenere un profilo basso, diciamo, per non irritare quanti già sono molto irritati nella sua maggioranza. Quello che è impressionante è la totale assenza di riferimento alle condizioni reali del Paese e alle condizioni materiali di vita di milioni di italiani. Ed è per alcuni versi anche un grottesco proporre un'immagine del governo e della stessa leadership che ormai non corrisponde più neanche nel sentire degli italiani, io credo, alla verità. E per quanto riguarda l'opposizione è tutto a voi studio. Grazie anche a Elisabetta Fiorito. Dunque, sin quale posizione ufficiale, mai retroscena, a che punto sono la conta dei voti, il pallottoliere? Sappiamo che tra l'altro Di Pietro si è recato in procura per un nuovo esposto sul denunciando appunto la compravendita di parlamentari. Allora andiamo con Andrea Viali a fare il conto in queste ultime ore. Quali sono, Andrea, gli aggiornamenti? Buongiorno. Sì, Alessio, buongiorno. Intanto sappiamo che è soprattutto a Montecitorio, alla Camera dei Deputati, che l'esito di questo voto resta quanto mai incerto e legato a quello che faranno, che potrebbero fare gli indecisi e i transfughi. Anche una sola assenza sappiamo che potrebbe fare la differenza. Poi, a sorpresa, abbiamo visto le cronache degli ultimi minuti, potrebbero arrivare anche defezioni da parte di alcune colombe di Future Libertà come Moffa e Siliquini. C'è poi da vedere come si comporterà anche il deputato Guzzani, ex del PDL, ora è l'unico rappresentante alla Camera del Partito Liberale, che è anche l'unico partito citato stamattina direttamente da Berlusconi nel suo discorso. Quasi certamente sappiamo poi che non voteranno contro il governo, quindi potrebbero astenersi Scilipoti e Razzi, che sono i due transfughi dell'Italia dei Valori, e anche l'ex democratico Calearo. A favore del governo è invece un altro ex democratico, Cesaro, mentre dovrebbero votare la sfiducia i sei esponenti radicali, ma l'esito del voto potrebbe dipendere anche addirittura da quello che faranno tre deputate incinte: Mongherini del PD, Cosenza e Buongiorno di Futuro e Libertà, che a causa proprio della loro gravidanza potrebbero non essere presenti domani in aula qui a Montecitorio. Difficile quindi calcolare se il governo otterrà la fiducia, ma se ce la farà sarà comunque per pochi voti di differenza. A te la linea. Grazie anche a te, Andrea. E c'è un fronte che riguarda anche la sicurezza in queste ore di possibile crisi di governo e di voto sulla sfiducia, perché a Roma le autorità stanno definendo la cosiddetta zona rossa, i palazzi politici e le sedi di partito che saranno blindati domani per l'annunciato corteo di protesta Uniti contro la crisi, ad aderire anche gli studenti che protestano contro la riforma dell'università. E questa mattina mattina hanno fatto sapere di non aver ancora ricevuto l'ok dalla questura, l'autorizzazione al loro corteo. Hanno invece già detto che domani tenteranno di violare ancora una volta Piazza Montecitorio. Ed era questo il tema anche del nostro sondaggio di oggi. Vi chiedevamo se vi preoccupa il clima di tensione politico-sociale nel nostro paese, e la vostra risposta è piuttosto netta. Il 61% dice sì di essere preoccupato, mentre solo il 39% si dice non preoccupato appunto dal clima di tensione sociale nel paese. Ed è stato nelle ultime settimane uno dei fronti anche proprio di queste tensioni quello che riguarda la Fiat. Oggi alle 16 un vertice in corso Trieste a Roma, sede dei sindacati metalmeccanici. È stata la FIOM a invitare gli altri sindacati di categoria metalmeccanici, FIM, CISL e WILM, per parlare proprio di Mirafiori dopo che le trattative si sono arenate, per parlare del contratto dell'auto. Sul tavolo anche l'uscita di Fiat dalla Confindustria, su cui in un'intervista al Corriere si è detto molto critico il leader della CISL, Bonanni. Qualunque soluzione si scelga, ha detto Bonanni, deve sempre essere all'interno delle regole. E alla vigilia di questo incontro Valeria De Rosa ha raggiunto il segretario nazionale della FIM, Bruno Vitali. Non dipende da noi la divisione, dipende dalle scelte che faranno le singole organizzazioni, in questo caso la FIOM. Noi abbiamo fatto l'accordo di Pomigliano, che è un buon accordo, stiamo trattando, se riusciamo a riprendere quello di Mirafiori, faremo le nostre considerazioni. Autonomamente la FIOM deciderà se stare dentro o stare fuori. La trattativa che stiamo facendo, che è attualmente interrotta, in questa trattativa non ci sono messe in discussione dei diritti fondamentali e neanche dei diritti contrattuali. Semplicemente stiamo discutendo un diverso regime di orari, che sarà più impegnativo indubbiamente, a cui corrisponderanno più soldi, e c'è tutta la questione dell'assenteismo, che è la materia veramente delicata, su cui l'azienda ha posto un problema di eccesso di assenteismo. Noi alla Fiat diciamo che devono fare nuovi modelli urgentemente, e devono farli pure belli e di qualità, perché se no comprano quelli delle altre marche. La Fiat proprio su questa osservazione dice: io per fare nuovi modelli faccio gli investimenti annunciati, però ho bisogno di un utilizzo degli impianti molto flessibile per stare dietro l'andamento del mercato. Il contratto specifico per l'auto e l'uscita dalla Confindustria, anche se annunciata come misura temporanea? Beh, noi diciamo che deve essere intanto temporanea. Io credo che si può fare, già nel contratto dei metalmeccanici è previsto che si può fare una finestra specifica per l'auto. L'abbiamo fatta per i siderurgici, noi partiamo da questa posizione e poi vedremo dove porta la discussione. E vi invitiamo anche ad ascoltare alle 13.45 in America 24 Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del Lingotto, proprio su questi temi, intervistato dal nostro Mario Platero. E ora tiriamo un po' il fiato, torniamo a ieri, a giornata di calcio, sedicesima di Serie A, che porta due verdetti. Le protagoniste indiscusse sono il Milan e la Juve, tensioni in casa Roma. Il Milan che vola un terzetto, che sogna, l'Inter alla finestra, la Roma in affanno. Ci sono volute 16 giornate per sgranare la classifica al vertice e l'allungo è tutto rosso-nero, col Milan che passeggia Bologna nel segno di Ibrahimovic, goleador e assistman. A 6 punti dai rossoneri in ascesa il Napoli, corsaro a Genova, e la Juventus che con una magia di Krasic e l'errore di Muslera fa suo lo scontro diretto con la Lazio. Vittoria targata del Neri, che sulle prodezze del Serbo e la regia di Aquilani ha costruito una squadra che sforna palle gol pur in assenza di un centravanti vero. Un applauso va poi al Cagliari di Donadoni, al primo Brescia targato Beretta e al Lecce di De Canio, tre allenatori che alle urla preferiscono spesso il lavoro duro che sta cominciando a pagare. Gli isterismi di Ranieri sono invece il peggior viatico per una Roma che soffre col Bari e che sabato è di scena a San Siro proprio contro il Milan capolista. A quel punto già si saprà se l'Inter avrà coronato il suo sogno mondiale e di conseguenza quale sarà il domani di Benitez. A sparigliare il mazzo una carta che tornerà in gioco a gennaio, quella di Antonio Cassano. Oggi forse la sentenza sulla controversia tra la Sampdoria e il fantasista, e domenica prossima sarà derby della Lanterna, con Fantantonio al massimo davanti alla TV. Peccato. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato del giorno della verità per il governo. Berlusconi al Senato ha proposto un nuovo patto con i moderati, ma Bossi ha chiuso all'UDC. Fignani non si muovono, commentano un discorso debole, quello del Premier. Intanto però prosegue la caccia agli indecisi. Due colombe di Futuro e Libertà disertano il vertice con Fini, potrebbero non votare la sfiducia. Di Pietro in procura presenta un nuovo esposto. Abbiamo parlato anche dell'incontro oggi tra i sindacati metalmeccanici in vista delle trattative con Fiat sullo stabilimento di Mirafiori. Adesso invece andiamo in Sicilia per una nuova grande operazione contro la mafia. Eh sì, perché sono segnali molto positivi quelli che vengono dall'isola, un'operazione che viene da lontano, quella che ha portato nella notte all'arresto di una quarantina di persone accusate naturalmente di mafia, grazie alle dichiarazioni di 13 coraggiosi imprenditori. Sentiamo. Ci sono voluti quasi 3 anni per decifrare completamente il codice utilizzato durante la latitanza da Salvatore Lo Piccolo per comunicare con i suoi uomini. Alla fine quello che è emerso è il quadro del nuovo establishment di Cosa Nostra nel Palermitano. Nuovi capi, le estorsioni, il nuovo business rappresentato dall'importazione di cocaina dal Sud America. E poi retroscena dell'omicidio del boss di Resuttana, Giovanni Bonanno, il cui cadavere è stato seppellito in un terreno di Cinisi destinato alla lottizzazione e messo a disposizione da uno degli imprenditori arrestati oggi. Tutto questo è confluito nell'inchiesta Dio Pizzo 5, conclusa all'alba con 63 arresti. In manette anche 6 imprenditori edili presunti prestanome che avrebbero ripulito il denaro accumulato attraverso attività illecite. Il contenuto dei pizzini è stato incrociato con altre indagini, come spiega il capo della squadra mobile di Palermo, Maurizio Calvino. La prosecuzione dell'enorme mole di roba da decriptare ha obbligato a dover metterci più tempo nella decriptazione di alcuni di questi pizzini e messaggi codificati, anche magari favoriti in questo senso da ulteriori dichiarazioni acquisite da collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni appunto sono state poi riscontrate e hanno fornito un incrocio per i dati tecnici già sviluppati. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È quasi sulla scia di quello che è avvenuto in Sicilia, anche in Calabria una operazione ha svelato appalti date alle cosche. L'operazione è scattata in Calabria, in particolare a Monasterace. Sono stati arrestati un tecnico comunale, un elemento di spicco della cosca Ruga, dell'Ndrangheta ed un imprenditore. Adesso con la cronaca andiamo all'estero, in Francia. Avevamo parlato già nell'edizione di Mezzogiorno di un sequestro di alcuni bambini in una scuola di Besançon. In Francia pare che l'epilogo sia stato positivo, ci racconta tutto Leonardo Martinelli proprio dalla Francia. Buongiorno Leonardo. Sì, buongiorno. La maestra e i 5 bambini che si trovavano ancora nelle mani del sequestratore sono stati liberati poco prima delle 13. Il tutto si è svolto in una piccola scuola materna, anonimo edificio di La Piagnoise, quartiere periferico e problematico, come viene definito, di Besançon, nell'est della Francia. Qui si era presentato stamani, poco dopo l'apertura, un giovane di 17 anni armato di 2 sciabole. Aveva preso in ostaggio una classe di una ventina di bambini, poi liberati progressivamente fino all'ultimo gruppo. Il giovane viene definito uno squilibrato, era già seguito dai servizi sociali, ma non aveva mai rappresentato un problema per l'ordine pubblico. È stato bloccato grazie a un intervento delle teste di cuoio, ma senza spargimento di sangue. Il giovane, che era sempre rimasto in contatto con i negoziatori, si è praticamente arreso. Quanto ai bambini, almeno quelli liberati nella mattina, sembra che non abbiano capito quello che stava succedendo. In seguito hanno addirittura mangiato alla mensa prima di essere affidati ai genitori che si stavano accalcando alle porte della scuola. Da Parigi per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie dunque anche a Leonardo Martinelli. Restiamo all'estero perché anche questa è una vicenda che dovrebbe concludersi positivamente. Parliamo dell'Odissea, del mercantile italiano Jolly Amaranto, che si trova al largo delle coste egiziane con i motori in avaria, ma le cattive condizioni del tempo hanno impedito fino ad oggi di salvare i 21 uomini dell'equipaggio, 16 italiani, 5 romeni. Però un rimorchiatore è riuscito proprio nella mattinata a raggiungere il mercantile e a trascinarlo verso il porto di Alessandria di Egitto. Tra l'altro l'interesse era legato anche alle merci pericolose per l'inquinamento possibile, alcuni fusti sono già caduti in mare della Jolly Amaranto. Laura Bettini ha raggiunto il comandante Cosimo Nicastro della Guardia Costiera Italiana, che sta coadiuvando le autorità egiziane. C'è un vento forza 7 che sta anche girando come direzione, un sud-ovest, quindi se il vento è forte va comunque ad intralciare le operazioni di rimorchio, però come dicevo è una situazione in miglioramento. Rimangono in zona comunque per sicurezza con le 2 navi greche, fanno scialuppe di salvataggio, manovrano eccetera eccetera, quindi la loro è una sicurezza nel caso dovesse andare qualcosa male, ci dovesse essere un abbandono nave dell'ultimo secondo. E che si sa del carico della Jolly Amaranto? Da noi risulta che qualche contenitore si è perso, parliamo di siamo nell'ordine di una decina, non abbiamo ancora i numeri proprio esatti. E ora una breve pagina economica con i dati macroeconomici della giornata che sono legati alle previsioni dell'OCSE sul tasso di crescita nella zona dell'euro, una ripresa ancora moderata, dice l'OCSE. Sentiamo. Grave recessione. Queste sono le parole utilizzate dagli analisti dell'OCSE per descrivere ciò che hanno vissuto i paesi dell'area euro. La recessione è stata poi seguita da una crisi dei titoli di Stato di alcune capitali. Una pronta azione politica ha aiutato a stabilizzare l'economia e ora è in atto una modesta ripresa, ma i rischi restano. A partire dalla posizione fiscale, quella è peggiorata e i 16 hanno bisogno di dettagliati e credibili piani di rientro pluriennali per stabilizzare le finanze pubbliche. Scrivono proprio così a Parigi. Tanto per non lasciare spazio a dubbi. I meccanismi che sanzionano i paesi che sforano i limiti di bilancio sono la chiave per la stabilità fiscale. Ecco perché l'OCSE chiede un'applicazione quasi automatica del trattato. Ci sono poi gli squilibri tra stati, sono di tipo economico, finanziario e ovviamente di bilancio. Questo richiede riforme da mettere in campo il prima possibile. Un'ultima considerazione per le banche. Anche nei paesi europei gli istituti di credito hanno sottostimato i rischi. Servono regole più forti e un controllo che non dovrebbe mai abbassare la guardia. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Il 2010... sul fatturato del 2009 siamo a più 20%, più 22%. Un buon risultato per Federico Vitali, presidente della FAAM di Monterubiano in provincia di Fermo, che nel 2009 era arrivata a perdere il 20% del fatturato. L'azienda produce sistemi di accumulo di energia, in altre parole batterie per le auto, batterie industriali e caricabatterie. 300 dipendenti fra Italia ed estero. A cosa si deve il risultato positivo? Ancora Vitali. Ricerca, innovazione. Il mondo cambia drammaticamente ogni giorno. E internazionalizzazione. Ci siamo impegnati seriamente, abbiamo investito 23 milioni di euro in 3 anni per proporre sul mercato prodotti assolutamente innovativi. Per esempio abbiamo fatto 2 brevetti in questi ultimi 2 anni. Internazionalizzazione, ci siamo impegnati particolarmente in Cina, noi ci siamo e questo ci ha permesso di crescere anche con i nostri clienti occidentali. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora vogliamo parlare di un appuntamento. La prima ed unica volta che uscì dalla biblioteca ambrosiana fu nel 1946 per una mostra a Lucerna in Svizzera. Stiamo parlando del Musico di Leonardo, l'unico ritratto maschile realizzato dal genio di Leonardo da Vinci, ospitato per oltre 500 anni proprio alla biblioteca ambrosiana. Ora lascerà Milano perché infatti sarà possibile vederlo fino al 27 febbraio ai Musei Capitolini di Roma, eseguito in età giovanile da Leonardo, potrebbe raffigurare il musicista atlante Migliorotti, che era un amico di Leonardo. Sentiamo al microfono di Adriana Fracchi e Petra Folena, presidente di Metamorfosi, organizzatore della mostra. Da un po' di tempo lavoriamo con Casa Buonarroti, che è il patrimonio di Michelangelo. Ci siamo incontrati con l'Ambrosiana di Milano, che a larga parte del patrimonio di Leonardo. È nata l'idea di un progetto comune Casa Buonarroti, Ambrosiana, Leonardo e Michelangelo, che trova il suo inizio con queste esposizioni. Abbiamo appena terminato l'esposizione di un bozzetto michelangelesco, I due lottatori, e il Musico esce dall'Ambrosiana di Milano e arriva per la prima volta a Roma, dove Leonardo è stato e ha operato, anche se la sua attività fondamentale, come è noto, è stata a Milano e in Francia. È un grande orgoglio poter esporre a tutti un capolavoro straordinario, perché è l'unico ritratto maschile di Leonardo e anche perché tocca questo tema del rapporto fra pittura e musica, che era un tema nel tardo 400 di grandissimo rilievo. E si può dire che con questo quadro nasce un po' la dimensione psicologica interiore dei personaggi rappresentati nei ritratti. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizi in studio, Roberto Scaltritti in regia. Vi lasciamo prima alle borse, poi Italia in controluce e poi America 24. Buon ascolto. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.